siamo in troppi, non ci stiamo, eh. E c'è Pippo e c'è Spine, Paolo, Noise, Alisei. Ogni volta siamo in 2000. C'è Luca, Alba e Wender, Marco, Dona, Ivo, Alan, neanche Herbert, Capatonda e Mazzoli, e non saremo i migliori, ma cazzo siamo in 2000. Non è un programma, questa è l'arca di Noè. Siamo bestie in uno show, benvenuti allo zoo.